Vendo tutto di Matteo Caccia. Il telefono cellulare, la TV, le vacanze già prenotate e le guide per andarci, i quadri appesi alle pareti, i vecchi dizionari, gli oggetti regalati e quelli comprati, quelli ancora da mettere in vendita e quelli già all'asta. Tutto, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo una radio sveglia. E lo so, uno dice una radio sveglia, però radio sveglia, diciamo, senza quella probabilmente io non sarei qui. In teoria senza mia madre e mio padre io non sarei qui. Però anche senza la radio sveglia, anche se sono le 4, la vedo 2, anzi sono le 4 e 3 minuti precise. Oggi è il 2 di febbraio, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi, che sembra il 2 di febbraio e quindi un giorno qualunque, in realtà ci sono addirittura 2 ricorrenze in un unico giorno, perché un attimo prima di andare in onda è entrato in studio, mi spiace ma non so il suo nome, comunque un signore, uno dei tanti giornalisti, che Luca che lavora qui in radio, e diceva oggi è il giorno della marmotta, ma soprattutto che la marmotta ha visto la sua ombra. Quindi se qualcuno si domandava, la marmotta avrà visto la sua ombra? Sì, l'ha vista. Che cos'è il giorno della marmotta? Il giorno della marmotta è il 2 di febbraio, appunto, e leggo chiaramente su Wikipedia perché non lo sapevo. Si dice che secondo una tradizione canadese bisogna osservare in questo giorno la tana della marmotta. Se la marmotta esce e vede la sua ombra, si spaventa perché vede la sua ombra, vuol dire che il cielo è sereno e che quindi l'inverno sarà ancora lungo, durerà ancora 6 settimane. Se invece esce e non vede la sua ombra perché è nuvoloso, l'inverno finirà presto. Ma quella donna così avveduta di Laura Faggin diceva sì, ma oggi è anche la Madonna della Candelora, giusto? E quindi le abbiamo detto, che cos'è la Madonna della Candelora, facendo finta di non saperlo, e lei ha sparato subito: quando viene la Candelora dell'inverno semo fora, ma se piove tira vento nell'inverno semo drento. Niente, ma credo che basta, non dobbiamo dire altro. Laura, giusto, perfetto, non dobbiamo dire altro. Quindi oggi è il 2 di febbraio, in base a che parte tirate, se appunto se siete per la Candelora oggi l'inverno è praticamente già finito, giusto? Perché se dell'inverno semo fora, a meno che non piovo tira vento. Se invece siete dalla parte della marmotta è esattamente il contrario, ancora 6 settimane d'inverno. Vedete voi dove stare. Torniamo a noi, perché oggi vendo la radio sveglia. Sapete che sto vendendo tutti gli oggetti della mia vita. E ieri sera sono andato al cinema, ho visto un film molto piacevole, molto, molto gradevole, un film con George Clooney che si chiama Tra le nuvole, e in un pezzo del film lui fa un monologo in cui dice esattamente le cose che penso io. Quanto è pesante la vostra vita? Immaginate per un attimo di avere uno zaino sulle spalle. Ora dovete riempirlo con tutte le cose che avete nella vita. Cominciate da quelle piccole, gli oggetti sugli scaffali, nei cassetti, i gingilli, oggetti da collezione. Sentite come aumenta il peso. E ora le cose più grandi. Il divano, il letto, il tavolo da cucina. Infilate tutto dentro, la macchina, pigiatela bene. La casa. Tutto dentro quello zaino, infilate tutto bene dentro. George Clooney in questo film è un tagliatore di teste, cioè uno che praticamente viene pagato per andare in giro per le aziende degli Stati Uniti e licenziare le persone. Oltre a fare questo, lui tiene delle conferenze e scrive un libro durante il film, proprio lo sta scrivendo, che si chiama Che cosa c'è nel tuo zaino? In queste conferenze lui spiega esattamente come liberarsi delle cose, quindi fa un'introduzione che è quella che avete sentito e poi dà anche la soluzione. Ora provate a camminare. È difficile, vero? Questo è quello che noi facciamo quotidianamente. Ci appesantiamo a tal punto da non riuscire a muoverci. E state pur certi, il movimento è vita. Bene, adesso io darò fuoco allo zaino. Che cosa preferite togliere? Anzi, lasciate bruciare tutto e immaginate di svegliarvi domattina senza niente. È quasi euforizzante, vero? È decisamente euforizzante e io vi dico, la mia casa si sta lentamente svuotando, visto che domani spedisco i primi oggetti che sono stati venduti, e ne parliamo il 2 di luglio, quando finiamo e la casa dovrebbe essere completamente vuota. Il film si chiama Tra le nuvole o Up in the Air, il protagonista è George Clooney, il film è molto carino e l'altra attrice, anche di cui non ricordo il nome, è molto brava. Invece sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Vendo Tutto mi pare, sì, però andate su radio24.it, lì trovate tutto, trovate il profilo di Facebook e quello di eBay. Sul profilo di Facebook, dicevo, mi ha scritto un ascoltatore che si firma Blu. Spero che sia un nome falso, te lo dico proprio sinceramente. Spero che non sia il tuo nome, Blu. Ciao Matteo, posso prendere in prestito un po' dei tuoi desideri dalla lista, che tra l'altro condivido in pieno, per utilizzare sul mio profilo Facebook? Vorrei proporre anche ai miei amici la domanda: che desideri vorresti realizzare? Firmato Blu. Chiaramente io a Blu, oltre a dirgli spero che non sia il tuo nome vero, gli ho detto lo puoi fare, ovviamente. Però mi ha stupito una cosa. Mi ha stupito il fatto che si prendano in prestito i desideri degli altri. Cioè, in questo modo, facciamo così. Ok, facciamo così, fermiamo tutto. Guarda, anche Paolo, per piacere, toglimi un secondo la base. Ok, in questo momento preciso, ovunque voi siate, in macchina, in ufficio, a casa, 349-238-6666, in questo momento voi mi dite che cosa vorreste fare, dove vorreste andare. Un desiderio, ma non fare un tuffo nella fossa delle Marianne, non per forza quello, non lanciarvi col paracadute come me, di cui parlavo ieri. Banalmente, una cosa semplice: vorreste andare al cinema stasera, vorreste andare a teatro, vorreste fare l'amore al vostro compagno, in questo momento. 349-238-6666. Adesso però basta, insomma basta con i fatti vostri. Veniamo ai fatti miei, come al solito, perché è arrivato il momento di vendere la mia radiosveglia. Questa radiosveglia che ho qui in studio con me, che non posso mandarvi in onda perché non c'è la corrente, purtroppo ci vuole la corrente, è stata, non lei direttamente, ma le radiosveglie sono state, diciamo, il modo grazie a cui mi sono svegliato, e molte persone si svegliano tutti i giorni. Nel mio caso però c'è una particolarità, ed è che io, attraverso questo oggetto, ho capito che lavoro mi sarebbe piaciuto fare. Cioè, sentendo il DJ Yasho, quello di cui vi parlerò a breve nel racconto, io ho capito che nella vita avrei voluto fare questo mestiere qua, stare di qua dal microfono. Quindi di fatto io a questo oggetto ho una sorta di debito di riconoscenza. E quindi mi piacerebbe però che anche voi quest'oggi mi chiamaste all'800240024 e mi diceste: guarda, io ho capito che il mio lavoro lo volevo fare in quell'occasione. Io quel giorno ho detto: questo è il lavoro della mia vita. 800240024, in modo da che mi raccontate innanzitutto che lavoro state facendo e soprattutto quando e perché avete capito che volevate fare quel lavoro lì e non un altro. 800240024. Dicevo, la mia radiosveglia è sul sito radio24.it, la sua storia, eccola qua. La radiosveglia. Radiosveglia Schaub Lorenz, modello RS105P, Digital Clock Radio. Gamme di frequenza FM 88-108 MHz, AM 540-1600 kHz. Display a cristalli liquidi di colore rosso di intensità modulabile. Snooze della durata di 7 minuti, antenna a filo, sintonia regolabile a rotella, proiettore dell'ora a soffitto. Valore commerciale 10 euro. Base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Detesto lo snooze. Avete presente cos'è lo snooze, vero? Scritto S-N-O-O-Z-E. È quel tasto che si trova su tutte le radiosveglie, o le sveglie in genere, che serve per posticipare l'ora in cui ci si deve alzare la mattina. In inglese credo significhi pisolino, qualcosa del genere. Nelle radiosveglie più raffinate lo snooze è programmabile, di 5 minuti in 5 minuti, oppure addirittura tutti i minuti da 1 a 59, in modo che se sai esattamente qual è il tuo pisolino time, lo programmi quel tot di tempo prima e quando suona sai che puoi farti ancora un po' di snooze. So che sembrerà strano a dirsi, ma tanto io detestavo questa funzione della radiosveglia quanto Giulia la adorava. La usava addirittura 3 volte nella stessa mattina. Siamo riusciti a discutere anche su questo, sì, su quante volte fare suonare la sveglia. Lei diceva che farla suonare più di una volta era un modo per esorcizzarla. Io invece sostenevo che era come prendere una mazzata in testa più volte nello stesso punto, esattamente sullo stesso bernoccolo. Secondo lei, il modo in cui uno si svegliava la mattina rivelava il suo approccio nei confronti del mondo. Per me invece è solo un modo per interrompere il sonno, che altrimenti, per quanto mi riguarda, continuerebbe all'infinito. Sulla mia radiosveglia, quella che vendo oggi, lo snooze è fisso, cioè non è programmabile. Dura 11 minuti, mi pare. O forse 7, devo controllare. Sta di fatto che il pisolino che questa radiosveglia ti permette di fare non è una cifra tonda, tipo 5, 10, no, 7 o 11. Da quando Giulia non c'è, lo snooze non lo uso più. Io sono di quelli che appena suona la sveglia si tira su, si mette a sedere sul letto. Un po' come a dire: o lo faccio ora o non lo farò mai più. La vivo come una sorta di intimidazione nei confronti del destino. Tipo, guardami qui, sono sveglio, sono pronto e vado incontro alla giornata senza paura. Più o meno. Per un certo periodo di tempo ho addirittura abolito la sveglia, perché mi ero convinto di avere una sveglia biologica infallibile, visto che tutte le mattine aprivo gli occhi un minuto prima che lei suonasse, in modo da spegnerla prima che partisse. Solo che il giorno in cui non l'ho puntata mi sono svegliato con 2 ore di ritardo e quindi ho capito che non si trattava di sveglia biologica, ma semplicemente di terrore del suo suono. A quell'epoca non avevo una radiosveglia, avevo una sveglietta semplice, di quelle che ci si porta anche in viaggio, con la rotellina per girare la lancetta e la linguetta da schiacciare per poterla poi spegnere. Quelle sveglie che fanno un trillo che tutti noi conosciamo, un suono terrificante, quasi ancestrale, che riecheggia nascosto chissà dove dentro ognuno di noi, come fosse il pianto di un neonato, e suona esattamente così. La mia prima radiosveglia me la regalò mia nonna, ai tempi del liceo. La scuola era a Novara e io vivevo in un paese a 10 km di distanza, quindi come tutti quei poveracci che vivevano nei cosiddetti paesi limitrofi, per poter essere in classe alle 8 del mattino ero costretto a prendere un autobus alle 7:10 e alzarmi alle 6:30. Quei 13 anni di scuola che iniziano con l'elementare quando hai 6 anni e proseguono fino ai 19 delle superiori, sono qualcosa che si avvicina molto al regime detentivo degli arresti domiciliari o alla carcerazione con obbligo di rientro serale. Gli anni più difficili della vita, quelli dell'infanzia e dell'adolescenza, gli anni che mi hanno segnato per sempre, i cui fardelli rimangono nel mio inconscio a ricordarmi che per quanto mi sia emancipato, in fondo sono sempre il pischello di allora. Ecco, in quegli anni, la prima cosa che io ho sentito ogni mattina era la musica che usciva da una radiosveglia. La odiavo perché mi ricordavo che dovevo alzarmi per uscire al buio, al freddo, però la adoravo, perché in quegli anni, gli ultimi 80 e i primi anni 90, quello che sentivo la mattina era musica come questa. Li trasmetteva una piccola radio della mia città. Si chiamava Radio Novara 82, sui 98.4 FM, che non ho mai capito perché non l'avessero chiamata semplicemente Radio Novara 98.4 e basta. Mandavano canzoni che altre radio non mandavano, però la cosa che adoravo era il DJ che trasmetteva la mattina presto. Si chiamava Ascio. A differenza di tutti i conduttori dell'epoca, che anche alla mattina alle 6 erano sempre allegri con il sorriso sulle labbra, lui sembrava sempre avere qualcosa che non andava. Cioè diceva le cose come se ti avesse fatto un piacere a stare lì la mattina presto. Ogni mattina che la radio si accendeva ero in fibrillazione, in attesa di sentire la sua voce, perché non era per niente scontato che lui ci fosse. Dal suo tono di voce, da quello che diceva, sembrava sempre essere sul punto di andarsene. E non so perché, ma era proprio questa sensazione che mi spingeva ad ascoltarlo. La stessa sensazione la provo ancora oggi, nei confronti delle persone non stanziali. Avete presente quelle che arrivano in un posto di lavoro nuovo ma che stanno già immaginando in un altro? Quelli che vivono una costante forma di inquietudine? Provo una forma di attrazione inspiegabile verso chi è lì ma sembra già essere da un'altra parte. Forse è per via di quell'aura di distacco dalle cose che gli permette di valutarle meglio, di tenere la giusta distanza. DJ Ascio era così. Mi piaceva quel suo stare al microfono come se ce l'avessero spinto davanti, come se ci fosse capitato lì per caso. Forse è stato grazie a lui, grazie alla radiosveglia, che ho iniziato a pensare che quello poteva essere un buon modo di passare il tempo e guadagnarsi da vivere. DJ Ascio non so che fine abbia fatto, e nemmeno la radiosveglia con cui mi svegliavo alle 6:30. So però cosa voglio fare di questa radiosveglia. La voglio vendere, come tutto quello che possiedo del resto. Voglio vendere lei, i suoi numeri digitali rossi, il suo proiettore dell'ora sul soffitto. Voglio liberarmi del suo snooze da 7 o da 11 minuti. e di tutte le mattine che, volente o nolente, ho dovuto aprire gli occhi per causa sua. Ecco perché, nonostante le litigate mattutine con Giulia e Radio Novara 98.4, nonostante DJ Yasho e lo snooze, questa radio sveglia è in vendita. Il suo valore è 10 euro, l'asta parte a 99 centesimi. Per dirmi qual è il momento in cui avete capito qual era il vostro lavoro, 80024 0024. Non vorrei aver venduto la Vespa, Armando. Vorrei andare a fare un giro all'IKEA, infatti ci vado. Beppe, vorrei godere il mio tempo. Vorrei andare in bici, Gianni. Vorrei andare alle Canarie con mia moglie per rifare il viaggio di nozze. Vorrei passare matematica domani. Voglio suonare il blues. Vorrei essere felice, per Luigi. Vorrei concepire il mio primo figlio. Vorrei decollare con un tappeto volante dalla finestra del mio ufficio e sorvolare Milano, vedere le Alpi innevate e respirare sulle teste di tutti, Christian. Vorrei tanto sparire da questo paese, Roberto. Vorrei che la terra fosse più alta. Sto zappando la vigna da un'ora con una zampa con il manico corto, Franco. Vorrei far rivivere una persona che non c'è più. Vorrei andare in montagna con amici e famiglia. Vorrei adottare un cane e fare con lui il volontario del soccorso per la ricerca di persone scomparse. E poi ancora, vorrei essere con due amici in viaggio in macchina verso non so dove. 349-238-6666. È bastato abbassare un attimo la base e dire: ditemi qual è il desiderio che avete in testa in questo momento, e desideri arrivano ancora. Vorrei avere esattamente ciò che ho. Sono viva e sono sempre incasinata con i bambini, ma è proprio ciò che ho sempre desiderato. Ciao, continuate a mandare i vostri desideri di adesso, di questo momento preciso, 1621 al 349-238-6666. Invece all'80024-0024 c'è chi, come me con la radio sveglia, ha capito: questo è il mio lavoro. Loretta da Napoli, pronto Loretta? Pronto? Ciao Loretta. Io sto benone, tu? Tutto bene. Bene, siamo in due, allora. Tu che lavoro fai, Loretta? Allora, il mio sogno è quello di fare la sceneggiatrice. Ho capito che l'avrei fatto quando a scuola mi hanno fatto leggere per la prima volta il capolavoro di Goldoni, cioè La Locandina. È stato amore a prima vista, non so se qualcuno mi può fare. Quindi, Loretta, ci sei ancora? Per diverpasso, insomma. Loretta, scusami, a parte che ti ho perso un attimo, però volevo chiederti, quindi è stato, cioè, un testo teatrale ti ha fatto capire che volevi diventare però una sceneggiatrice per il cinema? Sì. Non solo. Ah, nel senso che tu scrivi anche, scrivi testi in genere? Sì. Mi dici qual è il titolo, il titolo di una delle cose che hai scritto? Inedita, cioè mia? Certo, sì, inedita tua. Adesso, allora, a dire la verità, ho scritto delle cose, titoli, proprio... Dimmi una storia, Loretta, dimmi una storia al volo che hai pensato e che hai scritto, che vorresti scrivere. E in realtà era il maleggiamento di Sherlock Holmes, volevo portarlo. Ah, ok. Guarda, mi sa che t'hanno fregato sul tempo a Natale, che è uscito il film con Robert Downey Jr. Però io volevo farlo proprio musical. Ah, ok, musical, perfetto. Dai, che il musical va forte, Loretta, il musical va forte. Ti mando un bacio, grazie. Anche a te, ciao. Ciao, buona giornata, ciao. Andiamo a Monza da Maurizio. Pronto, Maurizio? Sì, pronto. Ciao, sei tu? Sono un po' malato. Pronto, Maurizio? No, allora, io ho deciso di fare questo. Io volevo fare nella vita, sì, il professore di storia delle dottrine politiche. Volevi fare, scusami, ti ho perso, il? Professore di storia delle dottrine politiche. Wow, una roba facile. Allora un giorno invece, in terza pagina, il Corriere era ancora il Corriere, diciamo, di una volta. In terza pagina trovo questo intervista, ma non si può dire che era un racconto fantastico. Sì. Paolo Panza. Sì, di Panza. Intervistava, ma però anche lì, cioè oggi noi siamo abituati alle interviste, domande e risposte, invece Panza creava un'atmosfera, introduceva, e noi eravamo alla Banca di Roma, si chiamava allora Banco di Roma, e lui stava facendo un'inchiesta, insomma, su uno dei soliti disastri bancari, e a un certo punto nel racconto il suo interlocutore, non so bene, non ricordo bene, insomma, se era l'amministratore delegato piuttosto, ma comunque era un dirigente del Banco di Roma, si è messo a piangere, e lui l'ha raccontato, no? Queste lacrime che uscivano dal coso così, e io lì ho capito che volevi fare il giornalista. Che era molto meglio, insomma, raccontare le cose così dal vivo. Ma quindi, Maurizio, tu sei un giornalista in questo momento? Sì, adesso un po' meno, perché io ho avuto, insomma, ho una certa età e poi ho fatto un po' di operazioni al cuore, per cui... Ok, però di fatto hai capito che lo volevi fare e sei riuscito a farlo. E l'ho fatto. Perfetto. Maurizio, ti ringrazio molto. Ho invitato anche il presidente Pertini. Wow. L'ho fatto bene. Immagino, ne parliamo un'altra volta, Maurizio. Ti ringrazio molto. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Stiamo qui a Milano, andiamo da Alessandro. Pronto? Ciao Matteo. Ciao Alessandro. Prima di raccontarti ti volevo rubare solo un secondo, aggiungo io il mio desiderio che è molto più reale. Vai, vai. Essere presente quando i miei due gemellini di 7 mesi diranno per la prima volta mamma o papà. Ok, però a questo punto vorresti con il mio lavoro che... non sarà facile. Vorresti che i tuoi gemellini dicessero prima mamma o papà, tanto la risposta la sai già ovviamente. Nonna. Che lavoro fai Alessandro? Io faccio il tassista . Praticamente la mia famiglia ha avuto per 40 anni un bar e io lavoravo con loro fino a tardi. Uh-huh. E venerdì e sabato il programma era chiusura, pulizia, salivo in casa, abitavamo sopra, un bel piattone di pasta, una bella birra e una videocassetta. Sì. Finché un bel giorno non ho scoperto l'acqua calda, metto su Taxi Driver, non l'avevo mai visto. Capita delle volte che i bei film si vedono tardi, no? Uno dice, perché ne sente parlare spesso e dici sì lo vedrò prima o poi e poi lo vedi magari 40. Tendo a decantarle le cose, le recupero dopo, sono un perito chimico quindi tendo sempre a decantare. Praticamente me lo guardo, ovviamente non immaginerò mai di fare la vita che faceva Travis, sì, il protagonista. Comunque mi addormento e mi sveglio con continuamente sempre la stessa colonna sonora. Poi aggiungici il tassinaro di Alberto Sordi. E lì hai capito che dovevi fare il tassista. Ho detto cambio tutto, prendo un lavoro diverso, non avevo più voglia di fare il lavoro che non era il mio, ma certo, era quello dei miei genitori, rispettabilissimo, bellissimo, ma non era il mio. Senti Alessandro, quindi facciamo così, io ti faccio gli in bocca al lupo per i tuoi due gemelli sperando che dicano prima papà. Ma guarda, non ci conto molto, però sarebbe bello se dicessero prima nonna o nonno, così sarebbero contenti, mamma e papà hanno tutta la vita. Va bene. Alessandro, in bocca al lupo per tutto, grazie. Un salutone, ciao. Io ringrazio anche gli altri che sono in linea, però purtroppo non abbiamo più tempo, Antonino da Padova e Marco da Padova, ma avranno modo di richiamarci, perché sto per chiudere e visto che i desideri continuano ad arrivare al 349-238-6666, io vi chiedo anche di mandarmeli a vendotutto@radio24.it, in modo che insieme ai miei possiate anche voi raccontare i vostri. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Sono le 16.28 in punto, abbiamo finito. È per questo che ringrazio Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolo Corleoni. Domani vi racconto un'altra storia. È la storia di un pezzo di arredamento che non mi sarei mai nemmeno aspettato di comprare. Figuriamoci se mi aspettavo di venderlo. Domani vendo un quadro. Quella di oggi era la storia della mia radiosveglia. Invece, per vederla e comprarla c'è il sito radio24.it. Per quanto ci sia affezionato, per quanto mi abbia svegliato tutte le mattine con la sua dolcezza, me ne libero anche di lei, perché alla fine una radiosveglia è solo una radiosveglia. Love, love, love.